Giorgina. Luca Pirolitico. Luca, chi è? Radio, dammi un controllo del radio, come sto andando? Sto usando l'MC60. Perfetto. Forte la radio? Perché ho tolto l'85, è troppo ingombrante, ho messo 60. In cuffia non riesco a regolarmi, va bene così? Ultima, cazzo qua, parlo e si accendono le luci dei cappellini di Natale. Devo dire che c'è un trasmettitore quasi nella stessa frequenza, Lu. Se mi avvicino sono accese, fate il tubo strano, queste le batterie sono, me le sono dimenticate, accese e sono scaricate, invece no. Quando trasmetto lo avvicino qua, facendo le luci. Ora dica. Sì, vuol dire che il ricevitore che hanno, il sensore che hanno è più o meno nella frequenza così PMR, capito? Ehi. Va a occupare domani l'ultima di fessa, fuori dalle balle. Ma docla, cosa ne dici tu? No, stavo facendo un po' di pulizia qua. Comunque mi dici che la radio va bene, quindi posso lasciare il 60 a questa distanza così? Perfetta, perfetta, ascolto benissimo. No, certo, lo dico. Va benissimo, Clara, grazie. Va bene, dai, ci aggiorniamo dopo allora, ok? Io mi faccio due cosette qua. Già sono in radio dopo. Io dopo non ci sono perché devo andare a vedere una finale di musica sassarese lì al palazzetto. Adesso ci facciamo la docetta, proprio in campagna. Ci cambiamo, ci prepariamo la cena, un paninetto, là, e poi saliamo. E dopo non ci sentiamo qua. Magari domani sicuro. Va bene, grazie del controllo, dai. Allora buona serata, buon tutto e saluta mia Marina. Ciao. Sì, a cambia con Anna, ciao Claccia. Buonasera. Che stai facendo? Ecco la c'è. Che stai facendo c'è? Io, sempre facendo. Qui noi tra un po' usciamo, stiamo andando a vedere una gara di... Ma una gara? Un festival tra la canzone sassarese, lì a Palazzetto. Oh, e a che ora? Le 6:30 inizia. Ah, facci, tu gliela puoi fare quello lì. Siete giovani, bisogna andare, qua che si ferma. E io come vado? Mi sento ancora male, che gioia, per carità. Ciao Gian Maria. E chi è? Aquila della notte, buon anno. Ho sento bene, Lu, chi è? Aquila della notte, buon anno. Buonasera anche a te, ben sentito. E auguroni, anche se è tardi, meglio tardi che mai, diceva quello, no? Appunto per quello, meglio tardi che si fa. Eia. Vai Lu, mi raccomando, divertiti stasera. E vado a femmine. Ciao Aquila, non so se mi ascolti a me. Adesso mi sto preparando il panino. Già ti ascolto già. Perché? È vicino questi ragazzi, già si sente Lu, a Puglia. Tu bene lo senti? Io un po' molto bene, molto bene. Vabbè, anche io non è che lo sento forte, però già si riesce a capire abbastanza bene. È bello, dov'è? Visto l'hai? Negativo, poco fa è entrato. Oh. Ti ha finita la faccenda? Sì. E allora ragazzi, se facciamo dare il prefetto e facciamo su, di lui. Ma io ti mettiamo un ricco e se ne andiamo dai nomi, Gio Maria. Andiamo dove c'è caldo. Eia. E infatti. Eia, per carità. Va. Come sono andate le feste, Lu? Gio Maria, così, dai, ma... Un po' così, non bene, comunque, dai. Per andare peggio, meglio così. l'importante è che ci sia riempito il sacchetto e che ci sia la salute, e poi il resto, tanto che quando mi sondirà è sempre fissa. Giomari, l'unica cosa che ho riempito è il vascone della stufa pellet. Ah, vabbè, è qualcosa, Almeno è caldo. Spero, almeno c'è caldo ed è tranquillo. Già lo credo già, comunque c'è freddo. Grazie, patrone Graziano. No, ah. Graziano non c'è, gruppo triste. Mio fratello. Sì, ho detto sei il patrone Graziano. Il più grande. Sono precisi, sente la voce quasi, è precisa, io l'ho assomigliata molto a Graziano. Detto con cui? È così, capito lui. Sentite. Sì, aspetta due secondi, un attimo di bianco per me, Giovanni. Ma è quello che fino ha fatto, poi Parigi completamente, ho il letargo è andato. Se va a sé, col tempo delle lumache. Vabbè, vuol dire non si sente bene, se no si sarebbe fatto sentire. O sei su fatto peggio di me. Ho detto sei su fatto peggio di me. Ed è il letargo. Vabbè, l'importante è che stia bene, eh? Quella cosa è importante, poi la radio mai si veglia. Una scena, così. Luca! Sta facendo un attimo di bianco adesso, Luca. Ah, ho capito. Va bene, va. Ci sentiamo anche dopo che sto facendo, terminando un coso qua. Già ci sentiamo fra 10 minuti. Ok, John Marie, intanto mi faccio qualcosa da mangiare. Ciao Gianni, non è Graziano, è fratello. Gianni, Gianni, sordo sì. Attenzione, Bacchisio. Avanti, chi è che chiamo Bacchisio? Buonasera, ben alzato. Buonasera, signor Molino, mi ascolti? Sì, ti ascolto. Ti ascolto bene, dai. Bene, o devo cambiare? No, va benissimo. Sì, adesso ho acceso. E anch'io, no, io sono in ascolto a altre frequenze, c'ho quella più l'altra, c'ho anche sulla 27. Ti ascolto abbastanza forte, bene. Limpido e chiaro, no, sto andando con la cosa, con la direttiva. E anch'io sono con quella lì, la stessa cosa, c'ho la mia puntata tutta al contrario, capito? Comunque già va bene, perché poc'anzi ero in ascolto, ascoltavo altre, poi già ne parliamo in verticale, dai, avanti. Ok. Domani non lavori, così è? No, domani non lavoro, domani forse c'è il mio cognato e cerchiamo di arrostire qualcosa, dai. Bene, va. Domani viene Alberto, Alberto si chiama, o si chiama, l'elettricista. E Albertino, sì, il fratello si chiama Carletto. Domani mattina, l'ho chiamato a mezzogiorno, dice, però domani mattina non posso da te. Meglio così, dai. Ah, permettete quell'interruttore di là, quello della casetta dove c'è l'officina. Sì, è quello lì. Mette l'interruttore e collegare il pressostato e mette la cassettina, dove mette una cassettina, mi ha detto. E così ti ho procurato un altro lavoro. Domani lo guarda e si mette d'accordo a fare un impianto di citofono. Oh, ma che da tua? Da Gianni. Che Gianni? Gianni Sanna, no? Il vicino mio di campagna. Ah, il tuo vicino, dai. Io. Infatti mi ha detto, quando venite a parlare, a me non mi costa poco dirlo. Infatti gli ho detto, quando è il lavoro, non mi frega niente se da fare questo o quell'altro, basta se sia da lavorare. Sì, lui non guarda a Natale, Capodanno, Domenica, no, come c'è da lavorare si lavora, Bacchi, non si staccano. No, ho detto, adesso domani mattina alle 9 sono da te, va benissimo, ti aspetto alle 9, infatti devo lasciare il cancello aperto così entrare dentro in macchina. Sì, almeno finisce ciccia, Marco, vado, non vedi più. Ehi, vediamo un po' poi con la mia svala, Dove essere tutto compreso, penso, non lo so. Non lo so, io sono da altro giorno che non lo vedo. Non lo so. Non lo so. Quindi per collegare quell'interruttore della, dove c'è l'officina, vogliamo distaccarlo. Quello lì c'è distaccato sempre, no? O era collegato tutto assieme? Non deve collegare l'interruttore, che è cosa che posso fare anch'io volendo. Ma dice, lo fa lui. Basta aggiungere un altro interruttore ed è a posto. Sì, allora già fa veloce. Ognuno sul lavoro suo già fa veloce, dai. E così provi prestota quello là, provi se va bene. Se va bene, speriamo che vada bene, dai. Dovrebbe andare bene, quello lì è come il mio. C'ha le stesse caratteristiche dei miei qui. Quello là dice non ce la fa perché il motore è troppo forte. Il motore spinge più del solito, quello è per 10 bar. E il motore spinge più di 10 bar. Ma se io non ci ho fatto caso quanti bar è quello lì. Sinceramente non ci ho fatto caso. Il mio è, vabbè, il mio motore, vabbè, io ho fatto l'autoclave, tu c'è il posto, il motore del posto, non lo so. Quello lì è quello che... è il gemello di quello che ci ho piazzato io, è il gemello. Che io l'ho acquistato da Cugurio, l'ho acquistato. E poi quell'amico mio, quello di Pedaliera, mi ha detto, se venivi qua costava molto di meno. Cazzo, che tu mi hai fatto pagare, in base di 7 passare, tu mi hai fatto pagare. Figurati, un grosso capannone. E chi ti ha detto che viene su 80, 85, ma detto, boh, ognuno ci fa i prezzi a conto suo, boh, non lo so. Uguale a quello che ho preso io come fattura, è tutta la patata uguale, solo che è più, diciamo così, per un motore più piccolo. Esatto, esatto. Io dietro ho segnato sotto, siccome l'ho confrontato al mio. Vabbè, dopo, vabbè, facciamo noi un discorso, già so fa lui che Albertino già lo sa, non c'è bisogno di dica nulla. La 220 è sotto, è la collegata 220 dietro alla 220. E l'altro va da quello lì al motore, va, direttamente. Vabbè, altro motore ce l'ha già collegato, quello che c'è dal motore andrà di lì, oppure ci va una cassetta per la 380, 220, là, come mi stava dicendo quell'amico mio di là. Ti ricordi quello lì che avevo detto l'altra volta, che mi aveva detto che ci voleva la cassetta? E domani quando viene lui, lo guarda lui quello che doveva fare, non lo so, ci penserà lui. Infatti quando l'ho piazzato ieri ho visto che c'è scritto 220 sotto l'entrata. Perché io ho segnato, l'ho confrontato al mio, adesso le segno 220, ma poi ho detto ma pensavo che attaccavi tu. Una volta che c'è lui, lo sa lui, tanto lo controlla con l'istrumento e tutto a posto, vai. Ma tu l'hai piazzato quello, no? Come? L'hai piazzato, sei da collegare o no? L'ho piazzato, proprio a collegare. Ah, e poi lui collega la cassetta e ciccia. Bene, Meda, bene, Meda. E oggi in campagna ieri, sì? È chiaro, limpido, in campagna. In campagna è una bella giornata oggi, di lusso. Una bellissima giornata, però stasera c'era freddo. La sera c'è umidità, La sera c'è umidità, ma anche la mattina presto, quando io vado a lavorare c'è umidità, molta umidità. Bisogna mettere la cuffietta. C'ho il cappello. Dopo a metà mattina siamo tolgo, mi sono sudo. Però la mattina piace. Proprio stamattina c'era il freddo, proprio. Boh, freddo a faccia, non beh. Ma il freddo non passa, ho infilato quell'affare là, oia, è di lusso. No, non ho capito, ha infilato quell'affare là, cosa? Io non ho mai capito, ma ho infilato quel giaccone là. Ah, e va bene, sì. Cavolo, non passa un filo d'aria, di lusso, è proprio formidabile. È meglio così, là, meglio così. Va benissimo allora. Di lusso ancora lì. Anda bene bene, va di lusso, il freddo non passa, stasera però quando me l'ho tolto c'era freschetto, piaceva tenerlo. Ma quella di sotto? Ah, la misura, la febbra, guarda io quella la uso la mattina, magliettina, io di sotto ho la magliettina solo, con quello lì io sto bene, anzi ti fa morire dal caldo, figurati, quella piace, perché piace. Ehi, ma non volete d'accordo. Ma io se c'è il cibo doppio adesso? Sì, perché anche tu ci hai collegato dall'altra parte, così? Mm, Io sono con il fratello quello che sei tu. Solo che in questo qua sento quando parliamo a tutti in questa frequenza qua. No, non è questa frequenza. Se tu noti sopra, questo qui sì, 145 785, dove hai sentito il CV doppio. È quello lì. Quando smetto io posso parlare loro e poi ascoltare, capito? Quando parlo io non mi senti perché te lo coprono loro. Perché loro sono più forti. Lo giuro. Capito? Su qualsiasi cosa, non trovo per la verità. Hai capito? Sono più forti. No, quello non lo sento. Tutto quello che stai ascoltando nel coso, come si chiama? Sono uscito. Esatto. Ah, poc'anzi c'era altra gente, c'era uno di Cagliari e uno di Oristano e uno d'Alghero, figurati, arrivavano sparati. Quello è ieri sera arrivavano sparati, c'erano quelli di Oristano, Oristano, Ossi e Itiri. No, poc'anzi, c'era una mezz'ora fa, un'ora fa, che non ascolto, però sta ascoltando un'altra cosa e c'erano gli stessi tre, c'erano. E più c'era quello di Sant'Orso anche. Sant'Antonio. Non so, ascoltando, si sentivo mio cugino, nulla da fare. Mi sembra che siano, a quanto ho capito, il ripetitore è guasto, quello di Limbara, per quello non arrivano. Ok, no Antonio, l'altro, di fronte. Stanno utilizzando Monterasso. Ma tu poc'anzi sei Antonio? No, non è Antonio, abita di fronte questo Antonio. Non ho segnato ieri sera chi erano quelli. Adesso non lo trovo, questi cartoni da chi erano. Ma non c'era Antonio poc'anzi. Questa persona qui era, abita di fronte a Antonio. Ascoltando si sentivo, ripeto, mio cugino, ma mi sembra sia poltrone quello a fare la radio. Anche lui entra qua, sì. Ci arriva, certe sere riesco a capire, a sentirlo, quando parla con l'amico che parla. E vuol dire che hanno il ripetitore guasto. Loro due parlano insieme, perché con là in macchina e lui a casa. E dietro arriva sparato, proprio sembra che sia lì sotto casa sua. Sì, guardi, quando stanno usando, vabbè, quando il ripetitore, invece arriva. Il ripetitore anche con qualche vitamina. Soprattutto, quando ci vuole, ci vuole. Ma Tony, non hai più sentito? Ma io l'ho chiamato tutta la sera, l'ho chiamato e non mi ha risposto per niente. Nulla, zero. E ieri alle 6 l'ho chiamato, nulla, alle 7, alle 8 e mezza, alle 8 meno un quarto, nulla. No, ieri non c'ero, ieri ero fuori casa, ieri sera, sono anche arrivato tardi e... Allora, mi sono appoggiato un'ora e mezza, poi sono andato a lavorare, figurati, animali. No, ma ieri c'ero io, lui, mi stavano chiamando, ti ho fatto diverse chiamate, ma negativo. E magari stai facendo una cosa, tutto qui avanti. E sono andato a portare il cane dove il compagno a Costruine, sono andato lì a portare il cane. Sì, probabile. Ma se non ci andava c'era freddo, mi ha detto. In macchina non c'è freddo, si sta bene. Si sta bene in macchina, viaggiare in macchina lì. Magari quando se ne scende per far correre il cane, sì. Perché l'altro giorno sono parlato a Platamona. Hai il tuo portavoglio in paese che corre di più. Ma lui è vecchio, Bacchì, lui è vecchio. La Platamona non può correre così perché c'è sempre gente. Capito? Invece lì, gli dicevo un tancato, l'hanno tancato, a voglia di correre. So che lui è vecchio. E come è vecchio? Lui è vecchio. Chi è questo PVV? Chi è che ha fischiato voi? Batteria a terra. Aspetta, c'è volato a fare il cacciere, adesso ho staccato, va. Ah, fischiava? È vicino, fischia sì. Capito. E il bestiale, l'ho più sentito voi? No, negativo, non ho più sentito, ogni tanto manda qualche cosa, anzi, lo mando per il buongiorno stamattina quando stavo lavorando. Ogni tanto manda qualcosa. Adesso mi ha preso a mandare immaginette delle Madonne. Perché ci sono i santi adesso. Infatti non si è acceso per nulla, non ha acceso nulla, non si sente, già una quindicina di giorni non parlo alla radio. Vuol dire sta facendo cosa a casa o mattina. C'è altre cose da fare, la radio è la seconda, quando ne ha voglia accende adesso. Vabbè, se ora altri impegni, è meglio eseguire gli altri impegni e poi la radio già riposa. Esatto, e fa bene, anzi fa benissimo. Ettore Squaglio, ci sei? Uno squalo di secco quello lì. Non rispondo, magari in ascolto. Sardina? Attenzione, Ettore. No, Ettore, sta guardando la TV adesso. Ascolta, ma tu come ce l'hai puntata? Verso di me? Non vedo. Te ne ha puntata verso di me, va giù. Ehi, verso di te. A Monteoro. Ah, Monteoro, io è quasi Monteoro, esatto. Ecco, la zona lì. Perché se sposto sbatto al palazzo. Ho capito, ma già va bene, arrivi forte, dai. Si sente bene. E anche girato così. Tra un palazzo e l'altro dove ripassare. Anche bella pulita la modulazione, bella chiara. Perché era in varechina sino a stasera. Quell'antenna, capito? Ed è chiara per quello. Sta per quello. Ottima, pulita. E la radio scalda. Devo misurare le stazionarie con tutto quel cavo che c'è, buttato. Ci sono 10 metri di cavo arrotolato dentro il vasetto dei fiori. Ma l'hai fatto? Una centrale l'hai fatto? Come? Si è fatto una centrale. Sicuro. Su è una centrale, non capisci un H, dei fili che salgono, quelli che scendono, vanno, tornano. Ma questo adesso era lungo il cavo, per non tagliarlo, l'ho rotolato e l'ho messo dentro un vaso di fiori. Sì, almeno fa un po' di giardinaggio, dai. Sì, almeno si scalda, perché quando è rotolato scalda. Esatto. Io ho lo scanner acceso e ogni tanto quando muto si blocca in questa frequenza e mi sento sull'amplificatore, mi sento. Tu c'è l'amplificatore. L'ho detto a quell'asino di mio cugino per trovarmene uno. Dice non ne ha. Adesso andiamo in fiera dove vorrebbe andare il prossimo mese, mi sembra sia il 23, una cosa del genere. Ma di febbraio o poi di gennaio? No, deve andare in fiera a Mantova, mi sembra. Sì. A Mantova, a piazza della fiera. Sì, ma di questo mese oppure febbraio? Il 23 mi sembra che sia. Il 23 febbraio, se c'è la fiera. C'è il sabato e la domenica. Vediamo un po' se per curare qualcosa lì. Porto Torre Radio, Serapisi di Burrasca. Passiamo sui canali 23. Ah, intendo, io. Ah, in Burrasca c'è. Lo lascialo fare. Quello sta sempre girando sta. Dove trova si ferma però. Sì, già ce l'ho un anno, sei sciuga. Qui c'è al minimo ce l'ho quasi 10, 20, quasi. Guarda, non si ricordate, quasi 30 anni, cioè, nuovo, è leggerissimo, è una piuma. Cos'è, una R1000? No, è una R950, piccolina, come è come un coso, è come uno stereo, sembra, va. Ho capito, sento bene. Uno qualsiasi, non mi importa la marca, non mi importa la cosa, il tipo, basta che parli. Io sai così, quando utilizzavo a casa, al monte c'era poco traffico, vabbè quel periodo c'era come traffico poco e nulla. Adesso qui, man mano che ho le cose, ma insomma, memorizzando, capito? E lui va sempre. E lui va sempre. No, quello che è dato a coso, attore, era favoloso per il ricevitore, era della Aesi, mi sembra della. Era tutto fatto in vetro, era tutto trasparente, si vedeva tutto il padrone c'era dentro. Bernardino, chissà che fine aveva fatto fare, boh? La fine, quello lì, ce l'aveva Mario Mao, ce l'aveva, non so poi chi l'ha dato. È andato a finire da Mario. E poi, boh, era bello, era valvolare, si vedeva tutto illuminato. Quando si scaldavano le valvole si vedeva tutto illuminato. Tutto il ventrame si rivedeva. Ok, sparito. Silenzio.